Pronto Giacomo? Sì, sono qua, ciao! Ciao, come stai Giacomo? Ma diciamo che è un pochettino raffreddato dato il periodo autunnale. Purtroppo abbiamo avuto un nubifragio anche noi altri qua. Lo immagino. Però adesso spende il bel sole e quindi... Benissimo. Tutto va bene. Benissimo, guarda, mi conforta questa cosa. Giacomo, ma scusami, a Catania mica ci avrete già il riscaldamento acceso, no? No, riscaldamento qua abbiamo 22-24 gradi, quindi quel riscaldamento io sto sudando. Scusami, Giacomo. Ho la maglia della salute. Però sto sudando, cioè perché c'è scirocco e quindi questo porterà forse un'altra più. Ah, c'è scirocco, pioggia, quindi tra l'altro lo scirocco è il vento che fa impazzire a Catania, giusto? Sì, infatti noi siamo succubi di questo vento. Dell'Etna e dello scirocco. L'Etna è la nostra montagna, lo immagino. Vulcano, è la nostra montagna. Giacomo, quanti anni hai, scusami, se posso? Io, no, sono 66. 66. Il 16 settembre. Auguri. Senti Giacomo, tu cosa fai? Lavori oppure sei in pensione? Ma sono in pensione, però sai, qualche lavoretto lo vado facendo. Ma tipo cosa, quindi, Giacomo? Mi attivo, perché uno se si fossilizza e se siamo finiti... Io voglio tutta la puntata solo Giacomo. Scusami, che tipo di lavoretti fai, Giacomo? Io il tecnico di televisore. Quindi elettronico. Ma ripari i televisori? Sì, certo. Ma pure questi qua al plasma giganti LCD? Allora, questi qua al plasma giganti LCD, ieri a un amico mio io l'ho fatto buttare perché ci vuole il plasma, era un NEC, e di listine costa 1.500 euro. E uno dice... Anche buttalo e via. Va bene Giacomo. Nove anni. Giacomo, senti, io purtroppo dobbiamo andare al dunque. Dico purtroppo. Dunque. Praticamente io ricorrendo faccio dei bei sogni. Per me sono bei. Perché il sogno di volare. Volare come? Semplicemente come? Agitando le braccia. Certo, come un uccello. Ti metti al di sopra delle persone, delle antenne, pensi di non arrivarci e quindi fai un altro colpo di braccia ali, e ce ti la fai. Elevi ancora. Giacomo, mi elevo. Ti elevi, perfetto. Giacomo, scusa, tu sei sposato? Sì. Ma quella fortunatissima donna che è tua moglie, come passa le giornate con te? Nel senso che tu le fai racconti come questi, immagino. No, ma io purtroppo a lei non gliela racconto perché dopo 45 anni di matrimonio non è che c'è più quel dialogo di una volta. No? Come non c'è più dialogo, quindi, scusami? Nel senso che parlate poco. Io credo alle amicizie. Ma sì, Giacomo, ok, quello lo immagino, però torniamo un attimo alla moglie. Tu parli poco con tua moglie, Giacomo? Certo, è poco. Ma tipo le cose... L'essenziale. L'essenziale, tipo uscendo, che... Sto uscendo. Sto rientrando. Vado a fare questa cosa, sono con un amico. Va bene, Giacomo, senti, posso chiederti una cosa? Noi possiamo tenere il tuo numero e ogni tanto io ti chiamo, così per, sì, semplicemente prego, per sentirti? Sì, lo puoi fare quando vuoi. Giacomo, guarda... Perché poi io ti ascolto anche la notte. Ascolto anche Cruciani, che lui è nato il 15 di settembre. Davvero? Io invece il 16, ecco perché mi è rimasto impresso Cruciani. Quindi tu ascolti Cruciani non perché ti piace, perché è nato un giorno prima di te? No, io, ti è rimasto impresso. Lo ascolto perché mi piace. Certo. In questi tempi c'è il gossip di Berlusconi, non Berlusconi. Beh, Giacomo, per questo Giacomo ti lascio il numero di Cruciani e ne parli dopo. È sempre lo stesso, però tra un paio d'ore. Lo so. Giacomo, lo io comunque ti richiamo quando voglio di fare quattro chiacchiere con te. Va bene. Ti auguro una buona serata. Anche a te, Giacomo. Salutami tua moglie. Salutami tua moglie. Dille qualcosa di più a tua moglie. Perché guarda che si può sempre recuperare un po' di dialogo. Sì, lo so. Bravo. Qual è il problema? Ciao. Ciao, Giacomo. Grazie.